Tra le righe. Letture, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Benvenuti a Tra le righe, che oggi riparte e lo fa alla grande, visto che ospita nella sua prima puntata uno dei maggiori conoscitori della cultura classica, autore di numerosi saggi e docente di filologia greca e latina presso l'Università di Bari, Luciano Canfora. Al centro della nostra conversazione il cosiddetto papiro di Artemidoro e il movimentato percorso alla risoluzione del suo mistero. Nel libro Il viaggio di Artemidoro, vite e avventure di un grande esploratore dell'antichità, edito da Rizzoli. Il papiro è un rotolo alto poco più di 32 centimetri ed è lungo circa 2,5 metri. È mutilo alla fine e all'inizio e contiene diversi frammenti, tra i quali uno con raffigurazioni di mani, piedi e volti, ma soprattutto contiene un testo geografico dove sono stati riscontrati degli elementi che hanno dato modo ad alcuni studiosi di attribuirlo appunto ad Artemidoro di Efeso. Ma io non vi anticipo più nulla, vi lascio con la nostra intervista, vi auguro buon ascolto e ci risentiamo alla prossima. Le interviste di Tra le righe. Allora, professore, c'è la carne a fuoco è tanta. Parto immediatamente col viaggio di Artemidoro. Perché Artemidoro si è messo in viaggio? Anche perché leggendo il suo libro lei parla di una specie di, tra virgolette, pellegrinaggio nei luoghi del culto di Artemide Efesia, però viaggio dal quale lui poi riporta delle annotazioni geografiche piuttosto dettagliate. Sì. Qual è stata la spinta di questo viaggio? La biografia di quest'uomo, di Artemidoro di Efeso, a noi nota è molto scarna, però, ma questo succede tante volte nell'antichità, quasi tutto si è perso. Non di meno, nel caso suo, abbiamo due o tre punti di riferimento molto solidi. Il primo è che lui è ancorato in modo significativo al più importante luogo di culto, potremmo dire, dell'Asia Minore, per quel che riguarda Artemide naturalmente, con proliferazioni in tutto il Mediterraneo. Ma la chiesa madre, per usare un linguaggio modernizzante, è per l'appunto Efeso. E lui è lì. E il fatto che abbia avuto un ruolo come esponente del Tempio ci fa pensare, ha fatto pensare non solo a me ma anche ad altri studiosi, che avesse qualcosa di più che una occasionale connessione. Probabilmente era di una famiglia tradizionalmente legata al Tempio, cioè sacerdoti, esponenti del culto. Questa è una notizia quasi certa. La notizia certa è che ha fatto un lungo viaggio, per un cittadino di Efeso al tempo era un lungo viaggio, fino a Roma per caldeggiare, difendere i diritti del Tempio di Efeso contro certe sopraffazioni dei pubblicani romani, quindi di funzionari dell'impero, della Repubblica Imperiale per meglio dire, che avevano sottratto delle risorse al Tempio, probabilmente risorse connesse alle paludi vicine da cui si cavava il sale, materia preziosissima. Questo viaggio all'epoca non era un viaggio che si faceva con un jet, si faceva molto faticosamente, navigando sotto costa, fermandosi in vari porti lungo la strada. Insomma, l'occasione di essere addirittura nella capitale della Repubblica Imperiale è stata anche, lo pensiamo un po' tutti, l'occasione per lui di guardare, osservare, descrivere il mondo mediterraneo. Quindi l'impulso è venuto di lì e si è tradotto probabilmente in una periegesi, come si diceva in greco, cioè una descrizione sul posto, fatta sul posto, dei luoghi più importanti del bacino del Mediterraneo. Nel libro, nell'opera che lui poi ha messo insieme, parla anche di regioni lontanissime dal Mediterraneo fino all'isola di Silon, e questo fa dubitare che abbia raccontato in quel caso cose viste, probabilmente ha ripreso fonti preesistenti e le ha riesposte. Insomma, il punto di partenza è una missione ufficiale e di alta responsabilità, il punto di arrivo è mettere a frutto un viaggio nella capitale dell'impero per descrivere il mondo conosciuto. Le interviste di Tra le righe. Artemidoro calcolava le distanze non in giornate di viaggio, ma in stadion. Ci vuole dare un attimo una spiegazione? Come la possiamo tradurre, stadion? Beh, sono circa 200 metri, è un'unità di misura che ha avuto il mondo greco, ellenistico e romano, almeno nei limiti in cui anche i romani si sono espressi in greco, un'amplissima diffusione. Unità di misura non univoca, quello ateniese era un po' più corto di quello alessandrino, per esempio. Pare che lui... stadion, fra l'altro lo stadio è il luogo che anche noi chiamiamo stadio, sì. E diventa un'unità di misura perché prima del sistema metrico decimale si deve assumere qualche cosa di universalmente conosciuto e riproducibile, riproponibile. Lo stadio alessandrino perché si afferma ed è un po' più grande, più lungo? Perché la cultura scientifica del mondo antico fino a epoca tarda è centrata ad Alessandria, ecco perché si assume quello lì. Ora, quanto alla scelta di prendere lo stadion come misura, ci sono vari problemi che noi non possiamo sapere bene come lui li abbia risolti, perché l'opera sua non c'è. Abbiamo dei frammenti, sì. Per giunta mediati da altri autori, non so, per esempio Strabone, che è un grande geografo di età augustea, quindi vissuto un secolo dopo, ha probabilmente riassunto in lungo e in largo, saccheggiato l'opera di Artemidoro, ma ha tradotto, per così dire, nel sistema a lui noto, nel linguaggio a lui da lui preferito, quello che leggeva nell'opera che stava utilizzando. Quindi a rigore, se già Artemidoro abbia sistematicamente e univocamente usato questa misura e non invece mescolata con altre, per esempio i miglia romani, per esempio in certi casi il tempo di navigazione, questo non lo possiamo sapere perché ci giunge quel poco che abbiamo attraverso autori i quali hanno adottato in maniera più sistematica lo stadion come unità di misura. È chiaro, la difficoltà con autori così importanti ma perduti sta nel fatto che è come se noi guardassimo attraverso un velo, è vero, e quindi c'è un filtro tra noi e loro, e questo filtro può aver lasciato traccia, per esempio in aspetti strutturali come le unità di misura. Perché lo stadion è un problema? Perché si può misurare a stadi le misure terrestri? Quelle marittime no, nel senso che per mare si va o sotto costa o tagliando, non andando a largo perché non si faceva mai, questo era pericoloso, ma comunque per esempio in un'insenatura tirar dritto anziché costeggiare l'insenatura per intero. Un geografo vissuto molti secoli dopo, che si chiamava Marciano di Eraclea, dà ogni volta due misure, una se si naviga costeggiando territorio che si vuol descrivere e l'altra tagliando in linea retta. Invece con il tempo di navigazione a rigore il sistema è più facile, sempre che ci si metta d'accordo sul fatto che in tot ore si copre tot spazio. Non so se riesco chiaro. Sì, sì, sì. È un problema che ci apre uno squarcio sull'estrema difficoltà di prendere sul serio i dati numerici materiali delle fonti antiche. Molte fonti storiche, di quelle poche che abbiamo, preferiscono dare le misure in genere in tempo di navigazione. Non so, Erodoto, Tucidide dicono per lo più ci voleva una giornata di navigazione. Nei geografi che noi abbiamo invece l'elemento unità di misura prevale. Però questa unità di misura oscilla. Nel caso di Artemidoro ci viene suggerito da coloro che lo hanno utilizzato nel tempo antico che avesse fatto lo sforzo di tradurre il più possibile le misure in stato. Però è una notizia da prendere con prudenza. Le interviste di Tra le righe. Lei, professore, ha citato adesso gli autori che hanno saccheggiato l'opera di Artemidoro. Sì. Non è strano, visto che non godeva di una fama, diciamo così, positiva presso nei suoi confronti c'erano dei pregiudizi? Non credo. Mi è sembrato di aver letto così, che qualcuno l'abbia giudicato negativamente. Eppure... No, la cosa... mi corregga, spiegata, appunto. Sì, no, non mi permetterei mai, voglio dire, rettifico la mia forse sommaria notizia. Quando si dice Strabone lo cita ma lo critica continuamente, e anch'io l'ho scritto e si può trovare questo un po' dovunque quando si parla di queste cose, discende non dal fatto che lui avesse sbagliato chissà quanto, ma dal fatto che nel mondo greco soprattutto, parlante e scrivente greco, c'è un po' l'abitudine nella letteratura tecnica di utilizzare una fonte, ma valorizzare il proprio personale apporto indicando dove ci si discosta dalla fonte precedente e perché. Va bene, quindi io non so, utilizzo un libro di un altro autore, ne sono ben consapevole, invece di dirgli grazie ad ogni pagina, mi prendo le cose sue, me le approprio e dove però non sono d'accordo mi metto a strepitare contro di lui. Ecco, questa è una maniera antipatica di fare, ma nelle fonti antiche ogni tanto ci rendiamo conto che è andata così. Tant'è vero che non so, Giuseppe Flavio, per esempio, lo storico ebraico del tempo di Tito Vespasiano, che andò poi a Roma, scrisse in greco la storia della guerra contro gli ebrei fatta da Tito e da Vespasiano prima di lui, ha scritto un libretto apologetico che si chiama Contro Apione, in cui vuole rivendicare l'importanza della storiografia ebraica rispetto a quella greca, e dice quella greca è tutta falsa a rigore, perché ogni autore critica il precedente, e quindi se li dobbiamo prendere tutti sul serio non resta niente, la somma è zero. Andiamo al nostro caso, il papiro cosiddetto di Artemidoro. Quali sono stati gli elementi che hanno portato i suoi colleghi, o parte dei suoi colleghi, ad attribuirlo ad Artemidoro? Anche perché loro, tra le prove, hanno portato l'analisi del carbonio 14, che confermerebbe la datazione, se non erro, fine del primo secolo d.C. Ma anch'io sono convintissimo che l'oggetto materiale, cioè il foglio di papiro, diciamo così, su cui è vergato il testo e anche i disegni, sia antico. Il carbonio 14 non serve molto per queste cose, perché dà un'oscillazione fortissima nelle date, ma anche senza carbonio 14 io ho sempre pensato che un falsario che si rispetta prende del materiale antico e ci scrive sopra, non è così matto da andarsi a procurare a Siracusa al mercato del papiro moderno dei rotoli su cui scrivere, va bene, sarebbe un ingenuo. Quindi il problema dell'analisi dei materiali lo mettiamo subito da parte, perché non ha nessunissima importanza e alla fine credo ormai più nessuno se ne occupi più. Ho visto ancora negli ultimi mesi qualche strascico di discussione e la questione della chimica è stata per fortuna finalmente messa in soffitta, perché non ha nessuna importanza. Abbiamo tantissimi falsi acclarati nel campo papirologico, ma anche nelle pergamene, e naturalmente sono pergamene o papiri che a qualunque analisi sottoposti si rivelerebbero antichi. Dirò di più, che nella attività di scavo che continua ancora in Egitto molto assiduamente, purtroppo non con grandi risultati dal punto di vista di stima, più di archeologia, di oggetti, continuano a venire fuori ogni tanto i cosiddetti rotoli bianchi, che vuol dire dei rotoli su cui non è scritto niente perché non furono utilizzati, poi sono andati a finire nelle varie discariche, poi sommersi da strati archeologici, eccetera. Quando si va a scavare ci si imbatte ogni tanto in questa roba qui. E questo succede ancora oggi, che il suolo è stato dissodato in lungo e in largo, succedeva ancora di più nel 7-800, soprattutto nell'Ottocento, quando il terreno era vergine, ben poche campagne di scavo erano state attuate. Tanto che all'inizio del Novecento, nel 1913, un grande papirologo americano che si chiama Johnson, un articolo famosissimo nel Journal of Egyptian Archaeology, scrisse: lancio un appello ai miei colleghi, appena trovate papiro bianco distruggetelo, perché altrimenti è utilizzato dai falsari, appunto per questa ragione, che il falsario non è così ingenuo da servirsi di materiali moderni. Quindi questo è il problema chimico, ma il problema chimico è stato tirato fuori tardi, a un certo momento. All'inizio nessuno l'ha tirato fuori, è stata più una trovata che voleva, per così dire, accantonare il problema o zittire le critiche. Invece no, all'origine, diciamo, il punto di partenza, lo si può capire benissimo. La sua domanda era come si sono convinti che Artemidoro, e la risposta è facile, perché nella quarta colonna di questo testo, che sta sul papiro cosiddetto artemidoreo, ci sono 13 righi che noi avevamo già, conoscevamo da una citazione bizantina di un'opera di Costantino VII, che parla della Spagna, in cui l'autore, che non è lo stesso Costantino, ma insomma sarà un suo segretario, Costantino è un imperatore, dice, Artemidoro dice, e giù questa citazione di 13 righi. Allora, ritrovare queste parole, questi 13 righi nel papiro, è parso l'argomento ovvio per dire, dunque abbiamo qui la Spagna di Artemidoro, la quale Spagna si trovava nel libro secondo dell'opera, in 11 libri, quindi questo è il secondo libro di Artemidoro. Questo è stato il ragionamento. Ora però non basta una cosa del genere, perché a parte che è reversibile, uno potrebbe dire, ma guarda un po', l'unico frammento lungo che avevamo di Artemidoro lo troviamo nel papiro, e sembra proprio una provvidenza ipersensibile ai nostri desiderata. E le difficoltà vere cominciano dopo, perché se uno analizza quei 13 righi, si accorge che nel papiro sono lievemente modificati, qua e là, una parola qua, una parola là, e vi è stato introdotto anche un errore geografico, geografico-politico potremmo dire. Viene attribuito alla provincia romana della Spagna Ulterior l'intera Lusitania, ma invece al tempo di Artemidoro la Lusitania in minima parte era stata conquistata dai romani, perché era sempre in rivolta, era un popolo fiero che non accettava di essere assoggettato dai romani, facevano una tremenda guerriglia. Quindi quello è un errore storico ed è la prima cosa che io ho fatto notare. Dopodiché ci si è messi a studiare il testo, le prime due colonne sono una specie di proemio, la quarta e la quinta sono una sommaria descrizione della Spagna, e si è venuto a constatare che il linguaggio è tardo bizantino, addirittura greco moderno, che il proemio generale sulla geografia non poteva stare nel secondo libro. Quindi tutta una serie di difficoltà su cui poi si è sviluppata la discussione da un lato e l'indagine ulteriore dall'altro. Le interviste di Tra le righe. Quindi il falsario, perché andiamo adesso a questo, diciamo così, losco figura, questo Costantino... No, è un simpaticissimo persona, un ragazzo, un uomo fatto, che aveva una cultura enorme, poi si è divertito alle nostre spalle. Questo infatti sì. Non era un improvvisato falsario, perché lui studiava. No. Come è venuto a conoscenza? Perché ho avuto l'impressione che avesse avuto una specie di chiodo fisso per Artemidoro. Questo uomo? Sì, Costantino Simonidis. Sì, sì, Simonidis era un personaggio singolarissimo, molto misterioso, di cui potrei raccontare una biografia che sembra quasi un romanzo, il quale aveva un debole per la creazione, naturalmente fittizia, di opere antiche o tardo antiche, per lo più epitomi, cioè riassunti di opere più grandi. E anche l'Artemidoro, questo papiro, a un certo punto dice, questa è un epitome, c'è scritto nella colonna quarta, e questo è anche molto sintomatico. Di geografia, questa era la sua grande passione. Ha fatto dei trattati teologici, e di questo ora non ha senso parlare, ma sarebbe interessantissimo, trattati teologici, perché lui era ferocemente ostile al papato cattolico ed era un devotissimo greco ortodosso, quindi ha coniato anche teologia nella sua ricca esperienza, era dottore fra l'altro in filosofia all'università di Mosca, si era dottorato. E poi questa grande massa di falsi di carattere geografico, che spesso sono soltanto delle fantasie, nel senso che lui elenca delle cose che dice di avere ma non le ha mai fatte vedere. In molti altri casi però esistono, e noi ancora oggi le troviamo. A Liverpool in particolare nel museo di Liverpool c'è una sezione papirologica dove è depositato quanto resta di lui, e sono parecchi papiri, sono una quarantina di papiri, alcuni dei quali tanto peculiari geografici, di grandi dimensioni. Il papiro di Annone, geografo, presunto geografo, ma in realtà sovrano cartaginese, che aveva varcato le colonne d'Ercole, aveva descritto l'Africa del Nord, le colonne, la Mauritania, insomma aveva questo debole per la geografia antica, e quindi Artemidoro si inquadra benissimo, è un autore importante, non conservato, e lui lo crea. Lei ha definito in uno dei paragrafi, con un titolo che mi ha colpito molto, il papiro un capolavoro mancato. Perché? Sì, perché ci sono queste... mancato perché non l'ha commercializzato. Lei pensa che a quel tempo, nell'Ottocento, no? Perché Simonidis era dell'Ottocento, sì, avrebbe potuto gabbare qualche studioso, perché l'ha fatto, è riuscito, sì, a vendere delle cose. Senza dubbio sì, ma per esempio lui ha fatto un'opera in ben 72 fogli di pergamena in palinsesto. Palinsesto vuol dire scrittura sottostante e scrittura sovrastante. Quindi lui ha scritto la parte inferiore in maiuscolo ed è una serie di notizie sull'Egitto. Quindi anche qui c'è un elemento geografico oltre che storico-antiquario. E la scrittura superiore ha messo dei trattati bizantini, non so, sulla Vergine Maria, su San Giovanni, no? Cose più pazzesche. Ha scritto due volte, insomma, prima in maiuscolo la parte inferiore, che è quest'opera pseudo-antica, la parte superiore trattati medievali, in maniera da rendere la cosa ancora più credibile. Questo oggetto enorme, perché 72 fogli di pergamena sono un'enormità, li attribuisce, per quel che riguarda la scrittura inferiore, ad un autore che si chiama Uranio. Dove l'ha trovato questo Uranio? Noi sappiamo che esistette un signore che si chiamava Uranio e si era occupato dell'Arabia. Lui lo sposta in Egitto, diciamo così. L'ha trovato nel repertorio geografico medievale di Stefano di Bisanzio, che è un famosissimo repertorio geografico. Lo ha venduto, e ci è riuscito nell'impresa, ad un dotto tedesco, un importante professore tedesco, Dindorf, Wilhelm Dindorf, dell'Università di Lipsia. E Dindorf a sua volta l'ha venduto all'Accademia delle Scienze di Berlino. L'Accademia delle Scienze di Berlino si è indebitata, in certo senso, per una cifra molto elevata, 5.000 talleri, con Dindorf, il quale inizialmente aveva pensato anche di fare un affare. E nella sua ingenuità ha addirittura pubblicato a Oxford una parte di questo testo. Io posseggo questa edizione e ci sono pochissime copie al mondo, perché alcuni mesi dopo scoppiò lo scandalo, si capì che era una falsificazione sempre per una inesattezza contenuta nel testo, e allora Dindorf chiese di ritirare le copie, però non riuscì a farla scomparire completamente. Mi spiego. E questo è un episodio famosissimo, fece scalpore in Inghilterra, in Germania, in Francia, addirittura giorni fa ho trovato a Parigi negli archivi nazionali che c'è una cartella del Ministero degli Esteri francese che ha messo in moto l'ambasciata francese a Berlino per avere notizie dettagliate su questo scandalo. Insomma, è uno scandalo che ha percorso l'Europa, e lui dalla Germania si è allontanato fortunosamente, eravamo nel 1856, e dopo vari giri è riapparso in Inghilterra e lì ha ricominciato la sua attività, e questa volta non più portando pergamene ma papiri. Infatti la fase papirologica, diciamo così, dell'attività del Simonidis è quella inglese. È riuscito all'inizio in grande stile, per esempio ha tirato fuori dei papiri del Vangelo di Matteo, presentandoli come molto antichi tramite il trucco della cosiddetta sottoscrizione, cioè la firma del copista praticamente. E all'inizio la cosa ha avuto un enorme rilievo teologico, perché si è detto: ecco, finalmente abbiamo un esemplare molto antico del Nuovo Testamento, il che aveva rilevanza nelle dispute, diciamo, storico-religiose. Lei sa che papiri del Nuovo Testamento ce ne sono moltissimi, ma partono dalla fine del primo e inizio secondo secolo, quindi diciamo 70 anni dopo i fatti raccontati. Invece questo papiro era molto più vicino, una bomba, si potrebbe dire, le chiese entusiaste, eccetera. Poi venne fuori che non era propriamente un oggetto autentico, ma questo non bastò a fermarlo, perché lui contrastò dicendo che erano accuse infondate e sfoderò altri papiri, uno dei quali è appunto quel Annone che ho prima ricordato. Quello che noi sappiamo di lui si interrompe in certo senso al 1867, allorché evidentemente lui intanto diffonde la notizia di essere morto, ma non era affatto morto, era vivo, tramite un amico, un greco, anche lui, Rodocanakis, e ricomincia la sua attività ad Alessandria d'Egitto. E lì però le tracce si perdono, perché non abbiamo dei resoconti, se non qualche traccia isolata, solo che nell'ottobre del 1890 si sparge la notizia che lui è finalmente morto, in Albania, parrebbe, e il primo giornale che lo fa sapere è il Times di Londra, e la notizia rimbalza in tutto il mondo, New York Times, Nuova Zelanda, Francia, Germania, e quindi sembra quasi un coro di persone che dicono finalmente è scomparso. Questa è un po', detta in breve, la vicenda, dalla quale si ricava chiaramente l'abilità e la difficoltà di smascheramento nei suoi confronti, perché abbiamo detto capolavoro mancato, perché portarlo a compimento avrebbe significato che lui prima o poi sfoderava un'edizione, come usava fare, no? Prima faceva il papiro e poi ne faceva l'edizione a stampa. In questo caso non l'ha fatta, molto probabile, questo almeno io penso, che sia accaduto qualcosa che l'ha costretto a fuggire dall'Inghilterra e quindi quel papiro non ha avuto la sorte degli altri. Ma allora Simonidis, al di là della sua preparazione, dello studio, si può dire che fosse anche un mitomane? Cioè, per quale motivo? Non penso solo per amore di questi autori, forse aveva in sé il germe della mitomania, insomma. Beh, lei sa che è molto diffuso questo germe, tanto, <Sì. ride> tra i falsari di manoscritti, quindi non sarebbe di per sé un fatto molto strano. Però nel caso suo ci sono varie cause concomitanti. Intanto c'è una sorta di patriottismo greco, no? Lui all'inizio della carriera sua di falsario ha prodotto opere che volevano essere di rivendicazione della nazionalità greca, per esempio Cefalonia, no? Cefalonia nel 1849-50 era sotto occupazione inglese, pur essendo ormai la Grecia indipendente, uno stato indipendente, e lui si è inventato un'opera su Cefalonia, che ha pubblicato ad Atene nel 1850, in cui mette una premessa, in cui dice: ho trovato un manoscritto di cui vi pubblico una piccolissima parte, e giù tutta una filippica contro gli inglesi che opprimono Cefalonia. Insomma, c'è un elemento di nazionalismo greco molto forte nella sua attività. Gli autori greci sono importantissimi, anche quelli perduti, e lui li fa rinascere. Non so se mi spiego. Sì. Poi naturalmente c'è il collegamento con un clan di persone, perché non può aver operato da solo, ci vogliono quattrini per fare tutte queste cose, e quindi probabilmente c'è una solidarietà con un gruppo inglese, in particolare i fratelli Hodgkin, di cui abbiamo i manoscritti alla British Library, e dentro i loro manoscritti ci sono migliaia di pagine inedite di Simonidis che noi stiamo cercando di decifrare, in una scrittura un po' difficile, ma che sono molto interessanti sul piano biografico. Poi c'è un altro amico inglese protettore che si chiamava Charles Meyer, che era un collezionista di antichità egiziane e quindi un fabbricante di papiri falsi, chiamiamoli così, è molto interessante. Molti sono convinti che Meyer sia stato ingannato, altri pensano che Meyer fosse complice. Io credo che fosse complice, però poi a un certo punto lo ha scaricato, come si usa dire, e a quel punto lui si è visto scoperto e, sia pure protestando, è uscito di scena. Ecco, se noi mettiamo intorno a lui uno sfondo più complesso, come ho cercato ora di tratteggiarlo, l'attività sua diventa meno inspiegabile. Aggiungo infine che l'attività di falso è una specie di mania ottocentesca, Ora ho per mano, sempre per queste ricerche, alcune opere di un francese molto importante che si chiamava François Lenormand, epigrafista, e lui ha fabbricato una serie di epigrafi false, un po' per divertimento, un po' per beffare i dotti. Ha fatto impazzire Mommsen con epigrafi latine false che Mommsen ha preso per buone e le ha pubblicate nel Corpus Iscriptionum Latinarum. L'Ottocento è il secolo d'oro dei falsi. E lui si è inserito bene. Anche perché sembra davvero un uomo di grande ingegno, un falsario, ma di grande ingegno, che riusciva ad inventarsi e ad inventare qualsiasi cosa grazie alla sua cultura, però Sì, alla sua inventiva. inventiva e originalità, per esempio, aveva deciso di contrapporre all'interpretazione dei geroglifici lanciata da Champollion un'altra interpretazione diversa, che lui ha argomentato in un libro pubblicato sempre a Londra, che si chiama Epistoli Maia Diatribe, dove porta tutta una serie di argomenti, ragionamenti, passi d'autore, anche passi molto rari, di autori greci che hanno parlato dell'Egitto, quindi Diodoro Siculo e tanti altri, Orapollo, il famoso Orapollo, in cui argomenta a suo modo di vedere che i geroglifici vanno interpretati in un altro modo. E addirittura si è inventato interi libri di Orapollo. Orapollo è un autore egiziano che scrive in greco e spiega in termini un po' mistici la religione egiziana, le antichità egiziane, eccetera. E abbiamo l'opera di costui. Lui ne ha creati due libri in più e li ha pubblicati in una rivista che aveva fondato, che si chiamava Memnon, tutti in greco, centinaia e centinaia di pagine. Quindi quando si dice, ma come poteva? Poteva e come, perché aveva una potenza inventiva niente male. A questo punto, infatti, mi permetto di dire che Simonidis sembra molto più interessante di Artemidoro, perché Certo. infatti Lo penso anch'io. l'abbiamo abbandonato un pochino. Volevo sapere, per i nostri ragazzi che verranno ad ascoltare questa bellissima conversazione con lei, dove è stato trovato il papiro? Ah, questo risolverebbe tutti i problemi, non lo si sa perché colui che lo ha venduto ha inventato, buon emulo, oserei dire di Simonidis, una serie di storielle sulla provenienza. Prima questo venditore si chiama Simonian, è un mercante che vive ad Amburgo, abbastanza abile, molto chiacchierato, vabbè, ma succede nel mondo mercantile. E lui ha inventato delle storielline, che cioè questo papiro l'ha trovato dentro una maschera funeraria che aveva comprato, anzi che era arrivata in esportazione dall'Egitto. Questa maschera lui non poteva immaginare cosa contenesse, improvvisamente questa era stata esposta al sole, allora è venuto fuori dell'inchiostro, allora lui ha capito che dentro c'era un papiro, l'ha fatta smontare. Miracolo, viene fuori un sacco di frammenti, Artemidoro, documenti vari. Questa leggenda, che fa un po' sorridere perché non esiste un fenomeno del genere, che il sole fa liquefare l'inchiostro come il sangue di San Gennaro secondo i napoletani, è stata donata, è stata inventata un'altra teoria, che cioè questo era un riempitivo di un oggetto sconosciuto. Insomma, per dirla in due parole, il mercante ha fatto il mestiere suo, cioè ha nascosto la provenienza e ha sfoderato dei grossi frammenti già belli e distesi. Alcuni studiosi che hanno preso per buona questa serie di frammenti, barattandoci la pena del vero Artemidoro, ha voluto dargli una mano dicendo che era vera quella teoria che lui aveva formulato, dopodiché di quella oscura provenienza non c'è nessuna documentazione. Quindi a tutt'oggi, è la ragione per cui il Museo Egizio di Torino ha respinto il papiro, non l'ha voluto dal primo momento, motivo origine oscura. Adesso è conservato, credo, a Milano. No, no, adesso si trova nel centro restauri della Reggia di Venaria. Ah, Venaria, Infatti lo Torino, andrò sempre. a vedere tra qualche giorno perché devo andare a controllare alcune cose E lei sulle. ritiene che allora la querelle sulle papiro pseudo di Artemidoro sia conclusa? Cioè, è stato messo un punto a questa. È tutto chiaro da questo punto di vista? Ma guardi, a mio modo di vedere sì, ma non vorrei peccare di ottimismo. negli ultimi tempi, noi abbiamo, dico noi perché è un gruppo di studiosi che lavora insieme con me, trovato degli elementi probatori di carattere risolutivo, che sono di iconografici. Le sa che su questo papiro, lo sappiamo tutti, ormai se ne è parlato tanto, c'è un sacco di figure, piedi, mani, arti, teste. Ecco, ci è capitato, cosa ovviamente molto gradevole, molto opportuna, di imbroccare un trattato di pittura del Settecento francese di un signore che si chiamava Jean Bert, in cui si ritrovano esattamente quelle tavole, tale quali. E quindi, siccome è impossibile che il signor Jean Bert nel 1740 avesse sotto mano il papiro, l'unica spiegazione è il contrario, cioè chi ha fatto il papiro usava Jean Bert. E dunque l'origine moderna del tutto è ormai acclarata. Il fatto che si eviti di fare un comunicato alle Nazioni Unite per dire questo, lo spiego col buon gusto, perché è inutile infierire, ma ormai la cosa è assodata, ecco, è molto difficile sostenere il contrario. Le interviste di Tra le righe. Io, professore, io la ringrazio. Concludiamo anch'io. Qui, non avrei voluto parlare per ore, ma i tempi sono quelli che sono. Io la ringrazio tantissimo e ricordo ai nostri ragazzi, a tutti coloro, il suo libro Il viaggio di Artemidoro, vita e avventure di un grande esploratore dell'antichità, edito da Rizzoli. Grazie e alla prossima. Buon lavoro. Grazie. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.